si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento della tarda mattinata su Radio 24, la domenica con le nostre piccole grandi storie virtuose. Insomma, cerchiamo di invertire un po' il trend della cronaca della settimana che ci lascia sempre un po' scoraggiati. Ed eccole alcune delle nostre segnalazioni, tanto per iniziare. La scorsa settimana avevamo parlato della spiaggia vegetale di Valverde a Cesenatico e vedete cosa abbiamo scovato invece questa settimana: la tecnospiaggia di Bellaria Igea Marina. Il bagno Andrea, zona 95, ha trasformato in una vera e propria techno beach la sua spiaggia, con ombrelloni fotovoltaici, tutto a risparmio ambientale, impatto zero, ombrelloni telegestiti col computer, si aprono e si chiudono col telecomando e in base anche all'andamento della luce solare, lettini dotati di connettività wifi. Insomma, poi c'è anche il telesoccorso per chi dovesse trovarsi in difficoltà in mezzo al mare. Insomma, tecnologie ambientali in Riviera Romagnola. Già che siamo in tema di segnalazioni estive, Arezzo Wave in Toscana dal 12 al 15 luglio torna i 4 giorni di rock a prezzi bassi. La buona notizia è proprio questa, perché insomma ci saranno vari ospiti in questa nota rassegna di musica rock italiana: Teatro degli Orrori, Caparezza, Nina Zilli, Banda Bardot. 20 euro l'abbonamento per ascoltare la buona musica per 4 serate consecutive dal 12 al 15 luglio ad Arezzo. Questa invece è una notizia che viene da Monza, tra solidarietà e impresa. Dato che le imprese individuali con titolari stranieri sono in crescita in Italia del 6% rispetto all'anno scorso e siamo in un periodo di crisi, e ecco allora che la Camera di Commercio di Monza e Brianza, in collaborazione con la Prefettura, ha promosso il primo corso gratuito di italiano business. Circa 20 tra aspiranti e imprenditori già di fatto stranieri stanno sviluppando le loro conoscenze della lingua italiana alle prese con lessico nelle materie contabili, amministrative e legislative. Insomma, un aiuto a far funzionare meglio queste imprese che poi danno anche da lavoro sul nostro territorio. L'ultima è una segnalazione che riguarda anche Radio 24, un'occasione unica per chi ha un racconto nel cassetto. Avete sentito forse anche i promo durante la programmazione di Radio 24. Ebbene, insieme alla Mondadori, se avete un giallo nel cassetto potete inviarcelo. Insomma, questo racconto sarà letto su Radio 24 se naturalmente supererà l'apprezzamento di chi è su questa iniziativa, e poi sarà pubblicato nei gialli Mondadori. Insomma, se avete un giallo nel cassetto potete inviarlo a Radio 24, basta andare sul sito e scoprirete come. 800 24 00 24, tra poco in diretta cominceremo dalla manifestazione contro il pregiudizio nei confronti dei persone con disagio mentale, Mad Pride a Torino. Insomma, vogliamo anche le vostre esperienze su questo. E poi aspettiamo durante la settimana le vostre segnalazioni sul profilo Facebook del programma, si può fare trattino Radio 24, e anche alla nostra segreteria telefonica. Continuano ad arrivare messaggi, la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si parla di crisi dei consumi, sempre, da molto, in questi mesi, forse anni. Sentite l'idea di questo ascoltatore. Volevo parlare della crisi economica, mettiamola così. La crisi è scoppiata perché si è bloccato il meccanismo dello scambio domande-offerta. I personaggi e gli interpreti di questo sono, da un lato, i produttori che hanno erogato redditi insufficienti a smaltire quanto venisse prodotto, dall'altro i consumatori che sono satolli, grassi, che versano alla moda, che passa di moda, quindi sono affrancati dal bisogno. Per uscire dalla crisi occorre che i produttori ricapitalizzino i consumatori affinché possano smaltire quel che loro hanno prodotto. È un investimento che possono fare per raddrizzare il meccanismo economico e sbloccare la crisi. Sono Mauro Artibani, studioso dell'economia dei consumi. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. One step beyond. We'll be right back. una citazione musicale, il gruppo Madness One Step Beyond, per introdurre il primo argomento di oggi. A Torino, tra poco più di due ore, si tiene il Mad Pride, una manifestazione nata dall'idea di un gruppo di pazienti psichiatrici per combattere le diffidenze, ma anche le differenze tra quelli che vengono definiti normali e quelli che invece vengono chiamati i matti. Mad Pride però è anche una serie di iniziative tutto l'anno, incontri, teatro, insomma un percorso per abbattere il muro del pregiudizio nei confronti di chi soffre del disagio mentale. Noi abbiamo convocato Simone Sandretti, presidente dell'associazione Olocroma e tra gli organizzatori del Mad Pride di Torino. Buongiorno Sandretti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa prevede la manifestazione di oggi a Torino? Allora, la manifestazione di oggi prevede una specie di riassunto in chiave di concentrato, quindi un assunto positivo di tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno. Quindi non è inizialmente e comunque rimane non una manifestazione di protesta, bensì una manifestazione di proposte. Che proposte? Le proposte che i matti, che a noi non piace definirli affetti da disagio psichico, bensì dotati di un dono, di una diversità psichica. Quindi, cioè, i matti nel senso noi, perché pure io sono matto. Ma a voi non dispiace l'uso di questa parola, Sandretti, matto? Perché anche su questo allora, si discute molto. Sì. Su questo abbiamo dibattuto molto e sono state fatte molte critiche, ma matto, di fatto, è una parola fenicia, si chiama madus in fenicio, ed è una sostanza che veniva usata nei riti di iniziazione orfici. Sì. Poi è stato preso in uso dalle romani ed è diventato sinonimo di diverso dalla norma. Allora, se la norma è ciò che fa la maggior parte delle persone, chi si comporta in maniera un lievemente o molto diversa è per, diciamo, come si dice, cioè, mi sono perso, sono un po' emozionato. Sul termine matto. Ecco, mi sembra già una bella spiegazione, perché insomma anche solo sul termine matto, persone con disagio mentale, a volte si discute forse anche troppo, poi si perde di vista l'oggetto. Ma torniamo alla manifestazione, Sandretti. Quante persone, cosa vi aspettate, cosa ci sarà, qual è il percorso? Allora, sul giornale che esce oggi, che si chiama La Sveglia, perché è ora di darsi una sveglia, abbiamo scritto che oggi le autorità dicono che ci sono 100.000 persone. Probabilmente non saranno così tanti, ma comunque saremmo meno, ma buoni, nel senso che vengono persone un po' da tutta Italia, da tutti i gruppi di utenti d'Italia, che fanno in qualche modo parte della Rete Nazionale degli Utenti, che è stata fondata da pochissimo, ad aprile, in Toscana, a Firenze, e che si sta creando un network fra gli utenti per quello che viene definito in inglese empowerment, cioè presa di coscienza e presa di potere, diciamo, nella società, ecco. Insomma, siamo ancora in tempo a dare l'appello, insomma, a chi non è troppo distante da Torino, perché la manifestazione inizia alle 2, poi andrà avanti anche nel corso del pomeriggio, e comunque a seguire con una certa attenzione le iniziative vostre, perché come dicevo prima Mad Pride è anche tutta una serie di iniziative, teatro, incontri che continuerete a fare. Tra l'altro questa è la prima manifestazione, in bocca al lupo, magari poi faremo un bilancio, ci risentiremo e vedremo com'è andata. Sì. Sandretti. L'ultima cosa che voglio dire è: dalle 2 si parte a Porta Nuova, c'è una manifestazione che attraversa il centro di Torino, quello vecchio, cioè San Salvario, si arriva al Parco del Valentino e dalle 5 fino a mezzanotte, forse anche l'una se ce lo permettono, faremo festa. Quindi venite anche solo al Valentino a divertirvi con noi. Grazie. Va bene, grazie Simone Sandretti del Mad Pride di Torino, l'appuntamento l'avete sentito, c'è tempo, insomma ancora due ore, poi andrà avanti tutto il pomeriggio, per cui piemontesi, ma anche limitrofi, accorrete numerosi se siete anche voi, se volete far parte di quel gruppo di persone che cercano di abbattere il pregiudizio nei confronti, chiamiamoli matti, o delle persone che soffrono il disagio mentale. 12:18, traffico, torniamo tra poco, continueremo a parlare di questo e d'altro, 800 24 00 24, anche con i vostri interventi. Insomma, avete sentito la manifestazione Mad Pride a Torino. Oggi vogliamo parlare, anzi partire proprio da questo, un po' dai rapporti tra noi che veniamo definiti normali, mi ci metto anch'io, e invece quelli che vengono definiti i matti. Cosa fare per integrarci, insomma, sempre di più, per non creare altri muri tra persone diversamente pensanti o diversamente sensibili. Raccontateci le vostre esperienze, anche se ne avete avute, con le strutture psichiatriche. Vi chiediamo, tra l'altro, se volete, di trovare che cosa ci può essere di folle nel comportamento di ognuno di noi. Magari è matto in questo periodo chi decide di aprire un'impresa perché va controcorrente, contro la crisi. Magari è matto chi decide di mettere al mondo dei figli nonostante insomma le incertezze sul futuro, oppure il classico aveva un posto di lavoro sicuro, ha mollato tutto per andare a vivere su una barca a vela. 800 24 00 24. Ma continuiamo a parlare di questo andando ad Urbino. Il progetto Ho messo le tue scarpe, anche in questo caso si vogliono abbattere muri di pregiudizio contro la diffidenza e contro le differenze. Abbiamo convocato Carlotta Toscano, buongiorno. Buongiorno. Che ci spiega subito di che cosa si tratta. Qua la situazione è un po' più complessa, non è una manifestazione, è un percorso in città. Si passa all'interno di una struttura che ospita pazienti di strutture psichiatriche e sono invitate 100 persone ieri, 100 persone oggi, tutti quelli che siete riusciti a coinvolgere, persone che dovrebbero far parte dell'altra parte, cioè quelli che vengono definiti normali e che attraverso questo percorso invece vengono a contatto proprio con questo mondo, con questa realtà. Carlotta, che cosa state facendo ancora ora, perché il percorso va avanti tutta la giornata? Va avanti di nuovo tutta la giornata, sì, come hai detto tu, è in tre momenti. Il primo è in questa struttura, che è la struttura residenziale e diurna Varia Dini della cooperativa Alfa di Pesaro, e che oggi è vuota perché i matti sono tutti in gita, sono andati al mare con questa bellissima giornata e sono molto contenti di averlo fatto. E quindi la struttura è vuota appunto ed è a disposizione di chi partecipa al progetto. Si entra in piccoli gruppi, ognuno ha una chiave e può aprire tutte le porte che vuole. E poi ovviamente c'è chi apre, chi non apre, chi rimane sulla soglia. La struttura è vuota, ma non tutti si sentono liberi di violare l'intimità, come alcuni hanno detto, delle camere, delle persone, degli spazi comuni, della sala fumatori. Quindi rimangono un quarto d'ora all'interno della struttura e girano liberamente. Poi si ritorna nel centro storico di Urbino per la seconda parte del percorso. Ci sono 6 punti proiezione disseminati nelle vie secondarie e quindi camminando sempre in piccoli gruppi si sente prima la voce. E poi si scorge da una persiana, da una finestra, al di là della strada, il viso di chi sta parlando, che ovviamente è proiettato, e ci sono dei frammenti di un documentario che è stato girato da chi poi ha pensato al progetto. Sì. Tu conosci in video le persone di cui hai visto le camere, gli armadi, se ci hai guardato dentro, i cassetti, se ci hai frugato, cioè si viene a contatto in un modo del tutto originale, del tutto inedito, insomma, attraverso questo percorso, questi video con le persone. Diretto, sì. In diretto, perché non hai il contatto diretto, sì, con la persona, e questa è una cosa che lascia grande libertà di espressione, devo dire. Io ho seguito diversi gruppi delle persone che hanno fatto il percorso. Cioè, un modo un po' soft, no? Per venire in contatto. È un po' tosto, c'è chi pensa. Un po' soft forse, proprio perché è mediato attraverso il video, attraverso questo percorso. Ti dico che non così tanto. Lo si, sì, può pensare, perché si può pensare piuttosto trovarselo di fronte, no? Un matto. E invece se tu te lo trovi di fronte, spesso alzi un muro e non ti, certo, dispone all'ascolto. È soft, Carlotta, proprio per questo, proprio perché invece attraverso questi stratagemmi che avete messo in piedi, questo volevo dire, riuscite a evitare, sì, che la gente alzi questo muro. A proposito, esatto, della gente che non alza muri, queste persone che stanno partecipando, come le avete trovate, come le avete selezionate, chi sono? Tra poco, tra l'altro, ci passerai di questi. Sì, passerò uno di loro che sta facendo il percorso. Non li abbiamo trovati noi, sono arrivati loro. Abbiamo tappezzato la regione, Marche, anche l'Emilia Romagna, di manifesti. C'è stato un battage notevole su internet, la grafica è molto accattivante, infatti se volete averne prova, il sito è www.messoletuescarpe.it e c'è anche una storia illustrata, che è la storia di Yuri, che è un matto certificato, che è fatta a mo' di fumetto, parte però da dati reali, che rimarrà sul sito, quindi chiunque di voi volesse volesse approfittarne, vado a vederla. Sicuramente, sicuramente. Carlotta, ci passi il tuo ospite? Matteo. Che ha già fatto la prima parte del percorso, sì, nella struttura, ha visto alcune proiezioni e poi stasera parteciperà con tutti, con tutti quanti, all'ultimo momento, che è il momento della restituzione. C'è una sorta di riunione plenaria in cui tutti si scambiano impressioni, opinioni, emozioni e sensazioni. Vogliamo sentire Matteo. Matteo, ve lo passo? Sì. Buongiorno Matteo, ci sente Ciao. Forte e chiaro? Ciao, buongiorno. Com'è stato allora mettersi, insomma, queste scarpe diverse di pazienti di queste strutture psichiatriche? Matteo, che cosa ha provato? Ma è stato molto forte, devo dire. È molto poco, diciamo, ragionata come esperienza, proprio esperita sulla pelle, sì, anche perché si ha la possibilità di viverla con molta lentezza, tra virgolette, nel senso che il percorso prende parecchie ore, quindi si ha il tempo di metabolizzarla e di vivere proprio nella pelle di questi Lei come ha pensato di avvicinarsi a questo progetto? Così per caso? Francamente sono dei miei amici che l'hanno, sì, che l'hanno organizzato, quindi conoscevo direttamente le persone che hanno fatto questo documentario e che poi hanno sviluppato da questo il progetto. Stamattina ho messo le due scarpe. Adesso pensa che trovandosi di fronte ad uno di questi che noi chiamiamo matti, potrebbe avere delle reazioni diverse, magari di minore diffidenza e una comprensione migliore? Guardi, la prima cosa di cui ci si accorge quando si entra nella stanza è che si hanno dei pregiudizi, perché ci si aspetta di vedere una stanza da matti, no? E invece si trova una stanza normalissima di persone che hanno le proprie passioni, che hanno i propri libri, che hanno una chitarra magari o un fumetto, e se lei entrasse nella mia stanza sarebbe più la stanza di un matto la mia, in realtà. Avrebbe più... Sembrerebbe più da matti. Sì, la mia sarebbe peggio, direi. E, insomma, altre quindi sensazioni. I pregiudizi, sì, cioè, cadono subito, direi. E invece questi video in cui si vedono anche le storie di queste persone, che cosa ha provato? Ma nei video poi si cerca di perché i malati, i matti, non, i matti è brutto chiamarli matti, sì, ma i malati non sono tanti, quindi si cerca di individuare più o meno chi sono i ragazzi del video e quali erano le loro stanze. E in realtà io ho provato una dissociazione, nel vedere le stanze ho avuto un'impressione, nel vedere loro ne ho avuto un'altra, di grande disagio a volte, di grande lucidità da parte dei pazienti nelle interviste in altri casi. Va bene Matteo, grazie. Grazie, insomma, siamo felici per te che hai potuto partecipare, per lei forse, molto visto bello, che non ci conosciamo, a questa iniziativa. Se ci vuole ripassare Carlotta, così la salutiamo, Carlotta Toscana. Sì, grazie. Eccola qua, Carlotta, del progetto Ho messo le tue scarpe. Ci salutiamo, grazie, insomma, una bella esperienza. Grazie. Chiudete stasera e poi farete dell'altro, andrete avanti con questo progetto, immagino di faremo sì. Faremo dell'altro, ci saranno i racconti di chi ha partecipato anche, sì, su internet e poi, chi lo sa, forse un'altra edizione. E magari vi mettete a disposizione anche di qualche altra città dove si vogliono fare dei percorsi, esatto, simili, dove una struttura, esatto, come la vostra, esatto, ancora è non ce l'hanno. È un lavoro lungo, ma si può fare. Grazie, questo lo prendiamo, grazie, così, come lo useremo per fare il promo del programma, Carlotta. Grazie. Voi. Da Urbino, buona giornata. Ho messo le tue scarpe, avete sentito il progetto 800 24 00 24. Vorremmo anche se il tema non è facile, perché quando si parla di queste cose sono sempre argomenti così non facili da affrontare. Proviamoci, 800 24 00 24. Tra poco, adesso c'è una pausa, giornale radio, torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati cari ascoltatori, 12.34, si può fare cronache da un paese migliore. Siamo partiti dal Mad Pride, la manifestazione contro il pregiudizio nei confronti di chi soffre di disagio mentale a Torino. Alle 14, insomma, l'iniziativa per chi volesse partecipare, c'è ancora tempo per muoversi e andare verso Torino. Poi ci siamo spostati a Urbino per il progetto Ho messo le tue scarpe, due storie che remano nella stessa direzione, contro il pregiudizio, per, insomma, evitare di costruire muri su muri nei confronti delle persone che già soffrono probabilmente per un disagio psichiatrico. E se è un fenomeno in crescita, basta pensare all'incremento dell'uso dei farmaci per questo tipo di sofferenze. 800 24 00 24, vi chiediamo di raccontare anche le vostre esperienze. Gabriella ci chiama dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno, io ho telefonato per l'iniziativa avuta ad Urbino. Sono mamma di un paziente da 2 anni in cura presso una struttura e mi chiedevo l'iniziativa da chi è partita? Perché i pazienti nelle strutture, in tutte le strutture e tutti i pazienti sono variegati così come lo siamo noi. Sono persone estremamente sensibili, provate oltre che dalla vita anche proprio dalle esperienze. Una delle cose che caratterizza la maggior parte, almeno dei ragazzi che io vedo insieme a mio figlio, è proprio la diffidenza nei confronti degli estranei. Per cui un'iniziativa che faccia entrare delle persone mai conosciute all'interno addirittura delle camere o anche delle strutture comuni, questo mi sembra una violazione della privacy e della sensibilità dei pazienti. Non ho sentito nell'intervento precedente parlare i pazienti, poi anche qua c'è chi può e chi non può parlare e nella gamma. Mi piacerebbe sentire, Gabriella, i loro pareri. Insomma, capisco. Sono d'accordo, mi scusi, sul fatto di abbattere pregiudizi, perché ce ne sono tanti. Ed è proprio questo il punto, credo, perché l'iniziativa, lei non ha sentito parlare le persone che sono ospiti in quella struttura, perché il progetto in realtà in questo caso è rivolto a chi sta normalmente dall'altra parte, per venire incontro, invece cercare di capire. E forse in questo c'è anche un elemento, come dice lei, di invasione della privacy. Non lo so, ci fosse stata ancora la nostra ospite Carlotta Toscano, gli avremmo posto questa domanda, ma insomma non so se questo è davvero un problema, oppure se invece questo incontro, questa violazione, come la chiama lei, della privacy, questo entrare nelle loro vite, non sia invece un'opportunità che si cerca di creare. Credo che sia proprio questo il senso del progetto. Ho messo le tue scarpe. Abbiamo ancora una telefonata, Alessandro da Milano, buongiorno. Buongiorno, salve. Eccoci. Dunque, il tema che volevo trattare non è quello del pazzo in quanto tale, ma del normale e del problema che ha il normale a essere normale. Cioè, credo che c'è una dialettica, un dialogo tra essere normale e essere anormale, cioè essere pazzo. Io personalmente ritengo che uno dei problemi più seri e più grossi che debba affrontare la nostra società è il rapporto con la normalità, non con la follia. Del resto anche Hillman lo dice, cioè Hillman dice che la società è malata e quindi ci sono i malati. Conseguentemente il problema è come noi definiamo la normalità e i metodi per arrivare a essere normali. Va bene, grazie Alessandro, anche il suo apporto su questo aspetto. 800 24 00 24, tra poco magari sentiremo qualche altro intervento. Invece adesso ci prendiamo una pausa e tra poco un altro ospite. Avete forse riconosciuto la colonna sonora del film The Artist, così una scelta, perché parliamo di arte e cultura. Prima di tutto una notizia di questa settimana. Nel 2011, secondo l'ultimo rapporto di Federculture, nel nostro paese la spesa delle famiglie per il settore della cultura, in senso ampio, musei, teatri, cinema e quant'altro, è cresciuta, ha avuto un incremento del 2,6% rispetto all'anno precedente. Questo già potrebbe essere, ed è una buona notizia, perché insomma è un settore che in qualche modo non risente della crisi. Insomma, si taglia da tutte le parti, però si cerca di tenere in piedi un po' anche una visione delle cose attraverso la visita nei musei, le mostre, il cinema, settori che poi, ricordiamolo, danno da lavorare a tante persone. E poi perché parliamo d'arte? Perché parliamo di una iniziativa. Artquake è un gioco di parole da earthquake, che vuol dire terremoto in inglese. E l'iniziativa viene da Reggio Emilia, una raccolta di opere d'arte di artisti italiani e forse anche internazionali, chissà, che saranno vendute e i proventi saranno poi destinati alla ricostruzione in alcuni comuni colpiti dal terremoto dell'Emilia Romagna. Noi abbiamo convocato Alberto Agazzani, che è l'ideatore di questa iniziativa Artquake. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti un po' come funziona questa iniziativa, come si può aderire? Ma guardi, l'iniziativa è nata, le racconto prima come è nata. Sì. È nata con la mia casa che traballava, sfortunatamente è rimasta in piedi, ma la paura è stata tanta. E allora mi sono, l'indomani, visto il disastro che è avvenuto nel Modenese, mi sono chiesto come io, un intellettuale che lavora con l'arte, io non sono un artista, io sono un critico d'arte e un curatore, che cosa io avrei potuto fare per aiutare queste persone. E ho subito pensato di mettere in vendita alcune opere della mia collezione. Poi mi sono chiesto, ma viste le relazioni, visto anche il ruolo che io ricopro a livello regionale, io sono il vicepresidente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, che ricordo è tra le più antiche del mondo, e dell'istituzione artistica di alta formazione artistica più importante della regione. Quindi ho coinvolto immediatamente il presidente dell'Accademia, l'architetto Alessandro Fiumi, il quale era ovviamente entusiasta, e sono partito con un appello su Facebook, al quale in poche ore hanno risposto più di 3.000 persone. E come si partecipa? Come si aderisce? Cioè, se uno è un artista, credo che sia rivolto a questi, insomma, che vogliono donare delle opere per poi fare questa, da parte vostra, questa vendita, questa esposizione, che ci dirà anche quando avverrà. Come si fa ad aderire? Allora, abbiamo attivato una pagina, sì? Un sito che è www.artquake.it. Sì? Sulla quale si legge innanzitutto il concept, e poi le istruzioni per inviare eventualmente, sì, i moduli, la lettera, tutte le modalità di partecipazione. La mostra, dunque le opere raccolte a tutt'oggi sono più di 600, provenienti da ogni parte d'Italia, con anche qualche partecipazione straniera. Frank De Note da New York, uno dei più importanti artisti della nuova pop art americana, ha inviato e dovrebbe arrivare a ore una sua opera. E, artisti di tutti i tipi, fotografia, scultura e pittura soprattutto, perché non hanno problemi di allestimento seri. E artisti di tutti i tipi, nel senso che hanno aderito grandissimi nomi, uno per tutti, Carlo Guarienti, che è uno dei più grandi pittori del secondo Novecento italiano, 85enne, un grande maestro che ieri ha aderito, sì, e anche semplici cittadini, dilettanti, perché nel momento in cui avvengono queste manifestazioni ci si mette tutto in gioco, insomma, da non si possono fare grandi e piccoli artisti. Senta, Agazzani, quando sarà l'esposizione e la possibilità poi di comprare le opere? Allora, le opere saranno in mostra ai Civici Musei di Reggio Emilia, nello spazio dei Chiostri di San Domenico, dall'11 luglio, che sarà il giorno dell'inaugurazione, presumo la sera alle 19, fino al 5 di settembre. Le opere verranno esposte con un'offerta minima per l'acquisto diretto, quindi sarà possibile acquistarli direttamente versando la cifra su un apposito conto corrente intestato allo Zonta International Club, che è il partner principale di questa iniziativa. Si tratta di un club service internazionale dalla serietà e dall'etica assolute. Ci siamo posti il problema anche di avere dei partner molto credibili. Vorremmo che il 100% del ricavato andasse ai comuni di Cavezzo, in provincia di Modena, sì, di Quistello, in provincia di Mantova, e di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, cioè le tre province che confinano con la provincia di Reggio Emilia. E le opere si potranno, sì, acquistare direttamente, come ho detto, anche online al sito www.artquake.it, e le opere che rimarranno invendute saranno oggetto di una lotteria. Noi oggi, quindi non si butta via niente, insomma. Noi da oggi, pare di capire, sì. Noi da oggi al 5 di settembre metteremo, sì, in vendita dei biglietti di questa lotteria, sì, a prezzo di 50 euro, e il 5 di settembre... Cioè, una volta finita l'esposizione, quello che è venduto, quello che avanza sarà messo, sì, insomma, a premio con questa lotteria. Benissimo. Considerando, sì, mi scusi se la interrompo, e considerando che le opere sono a 600 tutt'oggi, ma noi contiamo di arrivare a 800.000 opere, sarà praticamente automatico che ad ogni biglietto venduto, noi ci auguriamo, sia collegato un'opera. Quindi sei quasi sicuro di vincere, insomma. Le opere che eventualmente dovessero rimanere anche dalla lotteria saranno donate ai tre comuni, certo, ed entreranno a fare parte delle collezioni. Delle loro collezioni. Insomma, una bella iniziativa, avete sentito. Io ringrazio Alberto Agazzani, ideatore di Artquake, www.artquake.it, se siete artisti e volete aderire con le vostre opere, oppure se siete interessati a questa cosa e poi magari volete... Anche collezionisti, certo, volete andare a comprare e così partecipare a questa iniziativa di solidarietà, potete farlo, e poi la mostra ci sarà a partire dall'11 luglio. Grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata, grazie. Insomma, a dimostrazione che il mondo dell'arte e della cultura è vivo e vegeto, c'è un'altra iniziativa che viene da Torino, dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, GAM. Io saluto, e tra poco parleremo con lui, Andrea Caretto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che è un artista, curatore anche di questa mostra collezione sistemica, che ha una originalità, una particolarità per favorire l'incontro tra il pubblico e il mondo dell'arte, soprattutto arte contemporanea. Le opere d'arte possono essere prese in prestito, un po' come si fa nelle biblioteche coi libri. Ho detto sinteticamente, resti con noi Caretto, perché dopo il traffico parliamo di questa iniziativa. Si può fare anche un'arte fruita in maniera diversa, iniziativa alla GAM di Torino, abbiamo detto, la collezione sistemica, dove insomma, il pubblico potrà anche prendere a prestito le opere esposte. Andrea Caretto e Raffaella Spagna sono i due curatori di questa iniziativa. Caretto, ci spieghi un po' come nasce e come funzionerà questa cosa? Certo, innanzitutto una piccola precisazione, sì, nel senso che il curatore della rassegna è Luigi Fassi e noi siamo stati invitati come artisti, quindi diciamo che l'opera... Chiedo scusa soprattutto a Fassi. Luigi Fassi, no, è perfetto. Comunque in realtà quindi noi siamo stati invitati a proporre, sì, un'opera in questa rassegna e piuttosto che presentare il prodotto di una nostra, cioè un'opera nata in altri contesti, abbiamo deciso di lavorare sul contesto istituzionale della GAM. E proponendo un progetto che si intitola appunto Collezione Sistemica, che prevede la messa in atto di una collezione privata di opere d'arte, una collezione di nostra proprietà, acquisendo queste opere da altri artisti attraverso soprattutto lo scambio opera, quindi uno scambio di opere nostre con opere di altri artisti, sino ad arrivare alla costituzione di una piccola collezione, per adesso un nucleo iniziale, sì, di una collezione privata, che è esposta attualmente nel museo, la GAM, sì, all'interno di un grande espositore di legno, una specie di mobile armadio espositore, mm-hmm, con dei cassetti estraibili, in cui il pubblico può in effetti consultare questa collezione e, nel caso fosse interessato, a portarsi a casa in prestito per adesso la durata dei 15 giorni l'opera. Cioè voi dite è un modo anche un po' per così per favorire la diffusione dell'arte contemporanea, perché mi sembra di capire, parlando anche prima dell'intervista, voi dite è facile riempire, insomma, le mostre con i pittori dei secoli scorsi, però poi quando si fanno le mostre sull'arte contemporanea è più difficile tirare dentro la gente. Allora voi lavorate un po' anche per questo, perché si spinga un po' per favorire un incontro. Insomma, diciamo, a volte l'arte contemporanea risulta un po' di difficile fruizione, no? Si può fare anche da questo punto di vista un po' di autocritica. E voi con questo progetto vi mettete in qualche modo a disposizione del pubblico. In qualche modo l'idea era quella di innescare un processo in cui diversi attori della scena, del sistema dell'arte contemporanea vengono messi in gioco in un progetto condiviso, nel senso che volevamo veramente innescare un processo in cui ciascuno avesse un ruolo, quindi il pubblico da una parte, gli artisti, non solo noi ma anche gli altri artisti coinvolti, l'istituzione ospitando il progetto, ma anche i collezionisti, nel senso che per realizzare il progetto noi avevamo bisogno di risorse ulteriori rispetto a quelle del museo, perché è un progetto decisamente ambizioso anche dal punto di vista economico, per cui l'idea era quella di portare all'interno di questo processo anche altre forze che tutte insieme garantissero appunto la riuscita del progetto. Il ragionamento iniziale è stato cercare di capire se esiste veramente un pubblico dell'arte per l'arte contemporanea, ma un pubblico che è coinvolto in modo diretto in un processo di conoscenza insieme agli artisti. Lo scopriremo, Caretto, io la ringrazio intanto per essere stato con noi siamo quasi in chiusura e abbiamo ancora un contributo. L'iniziativa Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, potete andarla a vedere, collezione sistemica dal 12 giugno al 31 luglio, e scopriremo se intorno a questo c'è un pubblico. Chiudiamo con i consigli della decrescita felice. Questa settimana parliamo di piante di stagione, piante particolari. Sulla questione della crescita, per crescere di più, per stimolare la crescita, nuove occasioni di crescita, la crescita. Siamo ossessionati dalla crescita economica, eppure per vivere bene non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. Mal di pancia, mal di testa, colpo della strega. Prima eri sempre a casa del farmacista. E che spesa! Adesso invece, da quando lo hai piantato, sei sempre lì, in mezzo al giardino. E di sicuro hai risparmiato un sacco di soldi. Già, perché il principio attivo di molti medicinali è ricavato dalle piante. Hai mai pensato che potresti usarle per curarti e per risparmiare? Avere il pollice verde e non essere al verde, come ci racconta Vincenza da Pisogne, provincia di Brescia. L'erba della Madonna o Sedum telepium è una pianta medicamentosa che sicuramente tutti noi conosciamo, non ci siamo mai resi conto forse di averla addirittura sui nostri balconi. Cresce senza difficoltà, può stare tranquillamente al sole, anzi spesso ha bisogno di molto sole perché una volta riconosciuta è una pianta grassa, va bagnata ogni 5-6 giorni, ma sono sicura che una volta che le persone ne sentono parlare poi vanno a cercare il fiore, la pianta, si rendono conto magari che l'hanno proprio nel loro giardino e non l'hanno mai usata. È una pianta conosciuta dall'antichità ed è molto utile per ascessi, calli, cisti sebacei suppuranti, complicazioni di ferite, corpi estranei sottocutanei, fistole sottocutanee, il classico giradito, diciamo infezioni, anche addirittura per osteiti delle piccole ossa. È una pianta che dall'antichità è stata usata per detergere le urcere, per favorire la cicatrizzazione, calma il dolore. Viene utilizzata attraverso la foglia, le foglie vanno raccolte nel periodo di fioritura, tendenzialmente dopo giugno e per luglio e agosto e settembre, e la foglia viene applicata, non direttamente, viene sollevata la cuticola e viene applicata sulla parte che necessita. La cuticola è quella della parte inferiore, quindi la parte inferiore della foglia, cioè il capo dove c'è la costa, viene sollevata la pellicina e applicata alla ferita. Ci si può mettere un cerotto, si può lasciare per 12-24 ore, si possono ricambiare le foglie. Come vi dicevo, le foglie possono essere utilizzate anche congelate, si raccolgono quando la pianta è fiorita, si lavano, si asciugano e si possono poi mettere in frigorifero, ovviamente in congelatore. È una pianta che ci dà la possibilità di utilizzo in casa, uso domestico, e possiamo evitare in questo modo l'uso di pomate antibiotiche e addirittura di ricorso al medico, al pronto soccorso. Avete ascoltato Piante medicamentose fatte in casa. È la decrescita felice e si può fare.